fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho fatto una riflessione. Ieri abbiamo parlato di un argomento abbastanza borderline, abbastanza particolare, i luoghi fatati dell'amore. Abbiamo ricevuto record assoluto in negativo 7 telefonate. Mai successo, la media sono 40 telefonate, 30 telefonate, non lo so, 7 telefonate. Quindi o abbiamo un pubblico molto virtuoso che non aveva niente da raccontare sui luoghi fatati degli amori clandestini, o abbiamo un pubblico molto vizioso che teme di tradirsi se racconta cose irraccontabili. Beh, io oggi invece, per venirvi incontro, proporrò un argomento di cui ognuno è esperto. Ognuno dovrebbe questa mattina fare uno sforzo, dovrebbe osservare il proprio orizzonte olfattivo. Sì, ascoltare gli odori che sente attorno a lui, ascoltarli con il naso e raccontarceli. E raccontarci quanto alcune sensazioni olfattive, alcuni odori ricordano a lui momenti passati della vita. Mi rendo conto che parlare di odore, parlare di olfatto è parlare di qualcosa di osceno. Oggi la trasmissione rischia di essere a livelli di pornografia inenarrabili. Dell'olfatto non si parla mai, l'odore è innominabile, l'odore è censurato, l'odore è allontanato, l'odore è qualcosa che ci ricorda la nostra natura animale, e oggi dobbiamo essere qualcosa di diverso rispetto agli animali. Perché? Perché gli animali non consumano deodoranti, gli animali non indossano abiti, gli animali non usano impianti di condizionamento, gli animali si riconoscono annusandosi. L'estro amoroso fra gli animali si riconosce annusandosi le parti intime. L'estro amoroso tra gli umani si dimostra coprendosi di profumi, di creme e di belletto, nascondendo ciò che è naturale. Beh, questa mattina chiamate l'800 24 0024, tanto che ognuno di voi saprà esattamente quali sono gli odori della sua vita e gli odori che sta in quel momento ascoltando, di cui è circondato. Oggi le città sono sempre più anestetizzate dagli odori, si sentono poco odori. Io sto per andare a Milano e sentirò l'odore di Milano, che è diverso dall'odore di Roma. L'odore di Roma è l'odore del panto, l'odore della torrefazione del caffè, che sentivo da bambino e scambiavo con l'odore della pizza romana, quella salata con l'olio e il sale sopra. Mi sembrava la stessa cosa. Poi a 40 anni ho scoperto che in realtà l'odore del caffè torrefatto, dei bar meravigliosi dalle parti del Pantheon dove andavo da bambino, è diverso dall'odore della pizza salata. E su questo mi sono fatto una mappa di ricordi. Di una mappa di odori. 800 24 0024. Allora comincio io, mi metto in gioco, mi espongo, così poi potete farlo anche voi. Chiamate e dite che odore state sentendo in quel momento, quale odore vi perseguita. Io in questo momento ho una giacchetta nuova di fustagno marrone, l'ho comprata ieri, non mi serviva. Ne sono stato attratto, me la sono portata a casa. Perché me la sono portata a casa? L'ho capito questa mattina. Annusandola c'è lo stesso odore di fustagno marrone che erano quelle grandi pezze che aveva il sarto del mio paese, sarto cui ci portava nostra madre, per fare i pantaloni di fustagno marrone. Erano gli anni 60. Erano quelli che tenevano bene lo sporco, erano robusti e potevano essere rattoppati, riallungati, passati di fratello in fratello. Oggi ho una giacchetta fighettissima, non vedo l'ora di mettermela e andare a fare il fighetto al convegno milanese a cui parteciperò domani, ma è lo stesso odore, quindi è mia, è familiare, me la sento addosso. Un altro odore che mi è venuto in mente oggi salendo le scale, l'odore del cane Scottish Terrier che avevamo io e mia moglie quando ancora eravamo fidanzati. Non avevamo figli, il nostro figlio era quel cane. Era un odore schifoso, di pelo grasso, di pelo bagnato, di quei bocconcini schifosi che mangiava e poi faceva dei rutti schifosi. Poi gli volevamo tanto bene a quel cane. Poi un giorno è morto e mi ricordo anche l'odore di quando è morto, un odore terribile. Cambiò immediatamente odore, era già un'altra cosa. Capì che era morto dal fatto che era cambiata la sua puzza, che era la puzza che noi amavamo comunque. Beh, per mesi e mesi il suo odore è rimasto per casa nostra. Abbiamo dovuto riverniciare tutta casa per togliere l'odore del nostro cane. Un altro odore che io vorrei ricordare molto è l'odore dei pomodori. Voi dite, io vengo dalla campagna. Quando vado al supermercato annuso i pomodori perché voglio ritrovare quell'odore e lo trovo soltanto quando ai pomodori c'è attaccato un pezzo di gambo verde. Perché il vero odore dei pomodori, quando li andavo a cogliere io da bambino, non era tanto il pomodoro, era il gambo, quello un po' peloso, quello verde, la foglia. Uscivano dal terreno che era secchissimo, il terreno dove nascono i pomodori, un terreno secco, anche quello ha un odore. E sembra un cretto di Alberto Burri, che è un artista che non a caso si produce dalle parti dove io ho, al cui io ho legato questo ricordo olfattivo. Fa dei grandi quadri con della terra spaccata, perché riarsa, soltanto la terra così spaccata nasce il pomodoro che io ricordo olfattivamente. Poi, guardate, io mi sto mettendo in gioco, vi sto confessando gli odori della mia vita. 800240024, fatelo anche voi. Mi fa schifo dire questo numero, perché questo numero ha un odore metallico, ha un brutto odore questo numero, ma devo dirlo necessariamente, perché è il numero che permette a voi che ascoltate la radio di parlare con me. Adesso vi parlo dell'odore della passione, che è l'odore più innominabile, indescrivibile, o descrivibile attraverso parole che non si possono pronunciare alla radio. L'odore della passione lo distingo in due diverse sensazioni. C'è l'odore della passione clandestina, è un odore che ci si attacca addosso come fosse una di quelle camicie maledette della mitologia, delle favole, che non ti stacchi addosso se non facendoti scuoiare. È un odore che non ti si leva dalla pelle e tu vorresti levarti dalla pelle quell'odore, perché sì, ti è piaciuto, ti ricorda qualcosa, vorresti che il mondo non si accorgesse che tu sei stato in contatto con quell'odore. Poi esiste l'odore della passione che si può raccontare, è un odore bellissimo, gioioso, è come l'abito della festa che ci portiamo addosso e siamo fieri. Ricorda quegli abiti della festa dei contadini delle mie terre che mettevano la domenica quando andavano alla messa, e non a caso era l'abito che avevano fatto e confezionato quando si sono sposati. L'unico vestito buono della vita era lo stesso abito che gli metteranno addosso poi quando li sotterrano e li mettono sottoterra. Qualche odore schifoso, vi prego chiamate, ditemi anche i vostri odori, vi sto dicendo i miei. Allora, l'odore che più mi fa schifo è l'odore del cavolfiore bollito. Mia madre apposta bolliva il cavolfiore tutte le volte veniva un'amica, una compagna di scuola a studiare a casa mia. Il mio associare le prime pulsioni giovanili e fanciullesche all'odore del cavolfiore mortificatorio di mia madre, devo dire che mi ha dato qualche problema crescendo. Un altro dolore terribile è sentire quell'odore triste, disperato, che è l'odore della varichina. È l'odore che si sente nelle caserme quando i militari di corvée danno lo straccio per terra e non lo strizzano. Terribile, rimane quell'odore un po' schifoso, di straccio bagnato di varichina. È lo stesso odore che c'è nelle corsie degli ospedali, quelli brutti, quelli cattivi, quelli dove stanno i malati e nessuno se ne occupa. Lo stesso odore delle galere, le ho frequentate, le ho visitate, lo conosco. Sente lo stesso odore di straccio bagnato di varichina. L'odore delle questure, certe vecchie questure, non quelle nuove fantasmagoriche, hanno quell'odore di straccio di varichina, legato alla caserma, legato alla coercizione, perché infatti è lo stesso odore che sentivo nel collegio dei Salesiani, lo stesso odore dei gabinetti degli aeroporti, sono pulitissimi, ma hanno quell'odore schifoso di straccio di varichina. Io, per esempio, odoro molto i miei figli, li odoro da quando sono nati, dal primo momento che li ho visti continuo ad odorarli. Hanno odori diversissimi, mutano, cambiano, anche se sono due hanno odori diversi. Ben dato riconoscerei l'odore ai miei figli, ma è normale questo. Ora, il grande c'ha 13 anni, in fase di preadolescenza. Se anche non lo vedessi, sentissi solo il suo odore, mi rendo conto che qualcosa sta cambiando in lui, perché è cambiato il suo odore. Anche le persone care cambiano il loro odore, non è vero che il loro rimane lo stesso. Vai, annusi i genitori, non vedi da tanto tempo, capisci che è cambiato l'odore. Noi stessi cambiamo l'odore, io mi annuso tremebondo tutte le mattine le mani e ho paura di sentire quell'odore di vecchio che prima o poi arriverà senz'altro. E c'è anche l'odore legato all'odio. Le persone che odio ricordo per il loro odore, sempre un odore sgradevole, odore di fiato puzzolente al sangue, odore di naftalina legata a vestiti che non si mandano mai in tintoria, che si mettono negli armadi e si ritirano fuori. Sempre questo ricordo terribile. Diciamo che per me è più facile dimenticare che odio qualcuno piuttosto che dimenticare l'odore dell'odio che provo per qualcuno. Allora, io do subito il privilegio di parlare, il privilegio perché ho già degli ospiti che dovrebbero dire la loro, a Stefano, che è il primo che ha avuto coraggio di fare questa sorta di rivelazione personale sui propri odori. Stefano, la tua mappa olfattiva in questo momento. Sì, buongiorno Nicoletti. Io ho un ricordo olfattivo che mi si ripresenta ancora oggi e sento le stesse emozioni di allora quando ero un bambino che ero accompagnato all'asilo dalle suore, le figlie dell'oratorio. E mio padre e mio compagno sentivano nell'aria questo odore, era il mese di novembre e non tutti i giorni c'era questo odore nell'aria, era l'odore della tristezza, della malinconia che ancora oggi, se lo percepisco mentre lavoro, io lavoro in campagna, quindi lavoro fuori, sono un agricoltore, per cui questo odore ogni tanto a novembre si ripresenta, è come una mano che mi stritola un po' il cuore e mi dà una malinconia ancora incredibile. Hai una gran fortuna, perché vivendo in campagna, io ho vissuto in campagna circa fino a 20 anni, diciamo, la campagna restituisce il sapore degli odori che mutano con le stagioni. In città gli odori sono sempre uguali. Nel mio quartiere romano mi accorgo che estate solo perché sento di più la puzza della cacca dei cani, perché d'inverno piove, però è sovrapposta d'inverno alla puzza della cacca di storno che fagocita ogni altro odore cittadino, anche se odori sgradevoli. Invece la campagna ancora è abbastanza generosa nel dare i suoi odori, o sono cambiati anche gli odori della campagna? Sì, anche perché io penso che cambino nel tempo le percezioni olfattive e i loro connotati emotivi, perché io per esempio da piccolo mia madre era un'appassionata di trippa alla lodigiana, il foiolo fatto andare tutte le mattine, ce l'aveva su, proprio che bolliva, e questo odore per me era nauseabondo quando ero piccolo, mentre adesso sono un cuoco di trippa, per dire come invece questo odore abbia cambiato le sue peculiarità emotive, mentre l'altro, quello che percepivo nell'aria, è rimasto uguale, mi dà la stessa emozione di allora. Tu Stefano, il tuo odore lo riconosci? Lo senti cambiare? No, il mio odore è abbastanza uguale da tempo, anche perché faccio molto sport, probabilmente sudando molto rimane sempre abbastanza slavato e riconoscibile appena appena, è sempre quello. Grazie Stefano, buongiorno. Noi sappiamo che esistono circa 500.000 di componenti odorosi sconosciuti e che un naso allenato ne riesce a riconoscere soltanto 5.000. Ma mentre per i colori e le loro sfumature possediamo un ricco vocabolario, per gli odori il vocabolario ha solo pochissimi termini. Questa frase piccolissima, che però ci dà già il quadro della complessità della mappa odorosa, l'ho presa dal libro Odori di Gianni De Martino. Gianni De Martino lo abbiamo al telefono, buongiorno. Ah, buongiorno. De Martino, scrittore, giornalista, che ha scritto questo libro, secondo me fantastico, non dico mai fantastico di un libro, perché mi permette di riconoscere e di dare contenuto storico e letterario e scientifico alle sensazioni e alle ossessioni della mia vita. De Martino, come ti è venuto in mente anzitutto di fare una sorta di libello, di rivendicare il diritto a riconoscere gli odori, che mi sembra che sia la censura più grossa che fa la contemporaneità rispetto proprio all'odore? Ma in effetti è così, insomma, l'odore è schiacciato dall'audiovisuale. Come mi è venuto l'odore? Credo che sia legato a... Ti puoi avvicinare un po' al telefono, ti sento un po' male. Sì, ma anch'io. Ecco, perfetto, adesso va benissimo. Va bene. È legato un po' al movimento della riscoperta della sensorialità del corpo negli anni 70. È legato a questo. Mentre oggi parlare di sensi non suscita affatto scandalo collettivo, possiamo parlare di qualunque senso e di qualunque sollecitazione sensoriale, però ancora rispetto agli odori esiste una censura fortissima, tanto che tutta la civiltà contemporanea ha una fortissima tendenza a snaturare, a soffocare, a togliere ogni odore naturale. Questo perché rimane questo senso profondo di pudicizia nei confronti dell'odore? Ma perché l'odore è legato alla corporeità, quindi ci ricorda che siamo, che non siamo angeli, che siamo esseri biologici. Del resto Freud, in una nota al Disagio della civiltà, scritto negli anni 30, dice che collega la nascita della civiltà alla rimozione degli odori. Cioè, quando l'uomo si solleva da terra, dove si concentrano gli odori, il senso dell'odorato viene, per così dire, penalizzato, insomma, va in secondo piano e assume importanza soprattutto la vista. Quindi il sesso si vede e quindi, diciamo... Beh, lo sai questa cosa, ce l'hanno detta? Civiltà, quando... civiltà in rapporto con la rimozione dell'odore. I grandi luoghi di aggregazione umana, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, come appunto gli ipermercati, sono luoghi che sono un tripudio dei sensi, nel senso che vedi delle cose bellissime, dei colori meravigliosi, della frutta che sembra finta per quanto è bella, sei circondato da una musica di sottofondo, però l'aria condizionata ti impedisce di sentire gli odori delle altre persone e gli odori dei prodotti che tu vorresti comprare. Quindi c'è una sovravalutazione del senso della vista, del senso dell'udito e una anestetizzazione totale del senso dell'olfatto. No, non è proprio un'anestetizzazione totale, è una riduzione. Si va verso una civiltà del deodorante. Ci sono i pro e i contro, no? Immagina cosa significa vivere in un mondo in cui predominano gli odori. È il mondo animale, non è quello umano. Il mondo umano è un mondo... I libri di Camporese, che tu ben conosci, che descrive la carnalità di epoche passate, come appunto il Medioevo, descrive un periodo in cui gli offrori, gli odori, le puzze, le putrefazioni, le cucine invadevano completamente i sensi delle persone. Certo. Tant'è vero che Kant, seguendo Aristotele, che fa una classificazione dei sensi e mette l'odore all'ultimo posto, definendolo senso animale, Kant dice che l'odorato è nemico della libertà. Perché? Perché non puoi fare a meno di sentirli. Probabilmente la città dove abitava era piena di cattivi odori. Ecco, abbiamo al telefono la nostra antica amica di questa trasmissione radiofonica, che ormai il mondo conosce come la critica televisiva cieca, è Antonella Cappabianca. Antonella, non ci sentiamo da tanto tempo, ti saluto in diretta per la prima volta dopo mesi, ciao. Ciao, buongiorno. Oggi non ti chiedo di guardare la televisione, perché so che non è l'operazione che più ti rende felice, però è stato molto utile. Però mi piace capire com'è la tua mappa olfattiva. Non vedendo te, probabilmente riesci a percepire gli odori diversamente da come li sento io. Riesci a farmi capire cosa significa percepire intanto il mondo attraverso gli odori? Tu sentirai l'odore del tuo cane per primo, sì, immagino. Che sa di scarpa. In famiglia è nominato scarpa molesta, perché ha proprio l'odore di scarpa da ginnastica usata, diciamo. E devo dire che quando l'ho preso all'inizio cercavo anche di toglierglielo. Ho usato di tutto, guanti, spray, poi alla fine mi sono rassegnata, nel senso che penso sia il suo odore giusto che ce l'abbia, anche perché lei provava un fastidio profondo ogni volta che veniva trattata con queste cose, quindi evidentemente il suo odore le piace. Poi immagino, poi sai, è molto difficile, noi ci conosciamo, quindi parliamo con grande franchezza, che ne so io come pensi te, e forse, però vorrei, quando tu hai una persona davanti, ti colpisce, cioè il quadro che te ne fai, l'allucini e la vedi a modo tuo, sì, è prima la voce o prima l'odore di questa persona? Dipende, se la voce è particolare o l'odore è forte, diciamo che mi colpiscono, sono le prime due cose che tengo in considerazione, ma inconsciamente ne scarto una o l'altra a seconda della particolarità. L'odore prevalente che senti nelle persone, secondo te che colore ha? E poi ci sentiamo dopo la pausa. È un colore molto misto, diciamo tutta la gamma del marrone. Questo dà un'immagine molto chiara anche l'opinione che hai delle persone che ti stanno... No, non è vero, però è un odore molto... è un colore molto misto, sfumato, chiazzato... Vabbè, insomma, sì, adesso ho detto una cosa che mi metterei un sacco di guai. Ma figurati. Senta, Antonella, ora, mentre tu ti riprendi un attimo e cerchiamo di recuperare su questa cosa che ho detto io probabilmente, mettendoti in bocca cose che non volevi dire... 800 24 00 24, benissimo, oggi abbiamo sfondato la soglia della vericondia del nostro pubblico, ci stanno chiamando un'infinità di persone e ci stanno descrivendo il loro ambiente olfattivo, gli odori che stanno in quel momento sentendo, nel momento in cui ci chiamano, e gli odori della loro vita, basta ricordarli per un attimo. La nostra memoria organica assomiglia un po' al disco rigido di un computer, ma in realtà è fatta di sensazioni, di odori che sono intrasmettibili attraverso il codice binario, almeno al momento. Piero mi fa un racconto che mi commuove. Mi dice: le vecchie radio scaldavano nell'accendersi, diffondevano talvolta il profumo o l'odore della polvere che sovrastava, o delle briciole di pane se, come spesso accadeva, la radio stava in cucina. Oggi la radio spesso è attaccata a un MP3, si porta dietro l'odore del corpo delle persone che la indossano, e scambieresti un brano digitale per un altro podcast, a volte l'unico vero intreccio tra digitale e reale. Cioè oggi la radio ha perso la sua corporeità, ha perso il suo hardware, ha perso la sua consistenza, è morta e allo stesso tempo è risorta. Oggi è musica, è suono, è voce allo stato puro, però ha perso questo senso che ha odore. È vero, le vecchie radio avevano un odore, le valvole scaldavano, il legno, la bachelite, a seconda dei tempi, aveva un odore diverso, la plastica aveva un altro odore, la radio nuova aveva una certa puzza, quando la radio stava per bruciarsi, si bruciava una valvola, c'era un odore terribile, però un odore che sapeva di futuro. Ho interrotto brutalmente Antonella Cappabianca, che adesso riprenderà a parlarci. No, meno male, ma dai, si sta. Tu per tempo, tu sei passata alla storia, ho visto che hanno anche scritto un libro su di te. Abbiamo regalato fama al cantante cimiteriale Petrarca e alla cieca critica televisiva Antonella Cappabianca, ne sono felice. Senti Antonella, per oggi non mi interessa, tu mi guardi la televisione, tu mi devi guardare gli odori. Noi siamo talmente ormai affannati, nemmeno più li sentiamo con l'olfatto, figurati con la vista. Tu probabilmente riesci a mappare le persone. Tu il mio odore te lo ricordi? Sì. Di che odoro io? Perché non me l'ha mai detto nessuno. Di Gianluca Nicoletti. Ah, è un odore, perfetto. Hai un database mentale delle persone legate all'odore? Sì, molto volubile, nel senso che si aggiorna automaticamente, si cancella tante volte senza volerlo, si ripristina, insomma non lo governo io. Però senz'altro sì, a volte mi stupisco anch'io dei richiami che mi si generano sentendo un odore nuovo e tornando a una cosa di tanto tempo fa. Non so se tu hai questa sensazione, io per esempio mi sto accorgendo adesso che c'è un profumo di moda, non so come si chiami, è un profumo che portano signore e signorine, è meraviglioso, ma lo sento ovunque. Tu riesci a capire anche le mode profumiere a seconda dei tempi? Guarda, non è che frequenti la società. Ma le sento nell'autobus, sempre, nella metropolitana. Prendo sempre i famosi mezzi pubblici e lì gli odori sono abbastanza diversi. Lo sai perché? Hai notato che c'è un sacco di gente la mattina che puzza d'aglio? Sì. E lo sai cosa significa questo? Questi sono i primi segni delle mutazioni e dei flussi migratori. Sì. Cambiano le diete. La mattina ci sono molte persone che vengono da paesi dell'est che mangiano agli crudi o cipolle. Non accadeva prima. Io che prendo autobus metropolitane da diversi anni, mai come adesso sento persone che non hanno l'aspetto da agliatori terrificanti, bellissime donne bionde, ma delle fiatate di aglio che non avevo mai sentito. Solo a Genova le sentivo. Sì, io a volte mi sorprendo, soprattutto se ho un viaggio abbastanza lungo da fare sul mezzo, a cercare di immaginare cosa ha mangiato a colazione, poi la sera prima e poi il giorno prima e poi che vita fa, insomma, qualche volta mi trovo scritto una specie di racconto mentale su una persona partendo dall'impulso dell'odore che dà. Poi non ho modo neanche di verificare se è vero, non ho neanche il ritorno dell'immagine della persona, quindi non so se poi quello che immagino, quello che ho costruito durante il tragitto sia reale, però... Quindi tu sei immerso in un mondo di sensazioni olfattive senza vedere i corpi, cosa fai, le immagini, li collochi in qualche maniera? Sì, costruisco. Ah, li costruisco. Gli do intanto una forma, intanto gli do un sesso. E non ho il ritorno della realtà, cioè qualche volta mi è capitato. Ma l'odore del sesso si sente? Sì, direi di sì. Ma perché nella folla è sempre più difficile capirlo, perché i profumi sono molto simili, senti la sgradevolezza della sudorazione eccessiva a volte, l'odore della pelle, il sano e vecchio caro odore della pelle che tante soddisfazioni ci ha dato nella vita, è sempre più difficile sentirlo nella folla. Però si può scendere, diciamo, cioè io di solito immagino lo strato e il sottostrato, diciamo che lo strato è quello dato dal dopo barba o profumo, deodorante, bagnoschiuma, e poi c'è un sottostrato. Il retrogusto sarebbe? Sì, volendo sì, potrebbe essere il retrogusto. E avendo tempo, cioè diciamo da Termini a Flaminio non ci si fa, però se uno per esempio già deve fare da Termini a Ottaviano si può fare. Si può fare, insomma, a me capita di farlo. E di scendere, la prima cosa si scende lo strato dal sottostrato e poi sì, io insomma costruisco questa immagine. Ripeto, qualche volta mi è capitato poi di sentire qualche parola scambiato, di scambiare qualche parola con l'oggetto dell'osservazione e ho avuto delle conferme ma anche delle smentite. Adesso dirò una cosa che molti mi accuseranno di xenofobia, ma non è affatto così. È una cosa... Io noto anche il cambiare delle nostre popolazioni dagli odori diversi, odori esotici. La pelle, a seconda diciamo delle provenienze, cambia, è inutile, non vogliamo farci... E quindi le persone hanno odori diversi. Sentire l'odore diverso dello straniero, io non lo vedo come una cosa che mi mette paura. Da quell'idea di mix che in fondo piace, come sentire l'odore del kebab al posto dell'odore delle pizzerie o delle salumerie. Oggi i kebab hanno riempito le nostre strade. E sta cambiando qualcosa. Andare a Piazza Vittorio si sente odori di essenze orientali, di spezie, che prima te li immaginavi soltanto nei libri delle Mille e Una Notte, adesso le senti per strada. Quindi cambiano i tempi, cambiano le persone, perché cambiano gli odori? Sì, sì, oddio, io ho iniziato a viaggiare insomma relativamente di recente, quindi mi sono abituata abbastanza presto a questi cambi. Però, ecco, per esempio una sensazione che mi viene in mente ora, che sento spesso, proprio io la classifico così, ci sono persone che sudano burro, cioè un tipo di sudore probabilmente, non so, che cambia. Io per esempio, noi consumiamo olio, non abbiamo l'abitudine del burro, e nessuno a casa mia suda così. E queste persone di solito poi sono turisti effettivamente e c'è proprio la differenza, questa è una differenza per me nettissima, ora anche difficile da spiegare. No, la capisco perfettamente, non a caso Collodi metteva quel terrificante nocchiero che porta i ragazzi che nel luogo in cui si trasformeranno in asini, che è il paese Balocchi, l'omino di burro, personaggio inquietante. L'omino di burro è quello che porta Pinocchio e Lucignolo al paese dei Balocchi. Grazie Antonella, so che devi tornare al tuo lavoro, ti abbiamo già rubato troppo spazio, ti saluto e chiamo Sandra. Sandra, buongiorno. Buongiorno. Sì, io intanto, anche se lei non vuole, io ho una profonda ammirazione per il suo tono e per tutto quello che dice. Senti, signora, però, ecco, attenzione, non insista, prego. Vada con la sua appunto, mappa degli odori. Sì, la mappa degli odori, che a partire io ci vivo con gli odori, nel senso che mi ricordo la prima volta che ho visto il mare a 4 anni dopo la guerra, il profumo mi è piaciuto talmente tanto che mi ci sono buttata dentro a 4 anni in mezzo alle onde e alle cose. Dopodiché io amo talmente il mare e quel profumo che quando posso vado a risentirlo. Per non parlare poi, ecco, della fortuna che ho avuto di vivere in un posto dove c'erano tanti fiori, alberi ed animali, per cui ho l'olfatto proprio abituato a sentire... Mi dica un odore di persona che lei ricorda che è così forte, rimasto come l'odore del mare. L'odore del mare è l'odore della mamma. L'odore della mamma è perché una fino a quando può si sta attaccata a baciarsela, a sbaciucchiarsela così. E non ci sono state altre persone che hanno sovrapposto in forza il loro odore all'odore della mamma nella sua vita? L'odore della mamma, l'odore delle persone, i figli, appena nascono i figli, era tutto un annusamento continuo e poi lo senti, se anche riesci a percepire se stanno bene, se stanno male e comunque sì, questi legati alle persone, bene, ma io sono soprattutto legato ai profumi della natura, dell'odore dei vicoli nei paesi, per cui io amo tantissimo il paese, la campagna, la pioggia. Signore, è un filo lunghissimo e potremmo seguire per un'infinità di tempo, ma a me mi chiedono la linea e la devo salutare. Mi fa piacere che non essere l'unica persona che annusa i figli, lo dico quasi con vergogna, vedo che tutti annusano i figli e grazie a Dio questo ci tiene un contatto diretto con il frutto e con il proseguo della nostra vita, che in fondo è l'unica speranza di immortalità che abbiamo, è proprio avere dei figli. Facciamo un veloce cambiamento di rotta, lo annuncio in diretta, così vi do anche modo di riflettere di più sull'argomento degli oggi e quello degli odori. Noi avremmo voluto continuare a parlarvi dei profumi, abbiamo già pronto un ospite, un naso, un esperto in profumi, avremmo fatto sentire dei pezzi del film tratto dal famosissimo romanzo di Susskind, Profumo, che è un uomo ossessionato dagli odori perché non ha odore. Il protagonista Jean-Baptiste Grenouille non ha odore, quindi deve spremere delle donne per trovare l'odore, l'essenza di tutti gli odori, l'odore del fascio. Ma vi prometto, faremo un'altra puntata sugli odori, continueremo a parlare degli odori perché vedo che l'argomento interessa moltissimo. Vi leggo velocemente qualche sensazione olfattiva che mi arriva da Facebook. La rete si esalta particolarmente quando deve ricostruire dei sensi che naturalmente non riesce a trasferire attraverso la sua tecnologia. Noi possiamo vedere, ascoltare, siamo multimediali ma non multisensoriali. Ci sono delle sperimentazioni ma ancora non fanno parte, diciamo, dell'uso comune. Diciamo dunque, gli odori, dice Fabio, evocano immagini, inebriano, fanno sognare. L'odore del mare, l'odore dell'assenso, della terra bruciata dal sole, di un'isola del sud, l'odore delle spezie, del succarabo, l'odore di una donna che ti afferra e non ti lascia più, l'odore del fuoco, di un incendio, l'odore di una discarica, l'odore della morte che ti afferra la gola, l'odore di un bambino che ti fa piangere dalla gioia, l'odore della vita che pulsa in te, l'odore dei soldi, poi mi dice Salva Metz. I soldi puzzano, dice un altro. Pecunia non oltre, risponde un altro. Poi gli odori sono invisibili, eppure si vedono, sono silenziosi, eppure si sentono, dice Eleonora. A volte bussano alla porta della nostra memoria prepotentemente. L'odore del caffè la mattina appena mi sveglio. Mi ricorda quando da piccola non volevo andare a scuola, avrei preferito stare a casa, vedere cosa faccia la mamma, preferito restare a capire quale straordinario potere si nascondesse dietro quell'aroma di caffè che faceva alzare e cominciare una nuova giornata. Il più evocativo, l'odore dei libri, della stampa fresca, l'odore del sapere, l'assenso della saggezza. Ecco, io mi ricordo l'odore di Topolino Nuovo. Un periodo della nostra vita ci regalarono l'abbonamento a Topolino, che è una meraviglia. Arrivava Topolino il venerdì, chiuso dentro il cellophane. Aprire il cellophane era come farsi una sniffata improvvisa di Topolino Nuovo. Topolino aveva un odore meraviglioso, ci infilavamo il naso dentro e Topolino si invecchiava quando non aveva più quell'odore. A un certo punto la Mondadori, che stampava Topolino, cambiò formato e cambiò carta. Topolino non era più in quella carta porosa, era una carta lucida. Topolino perse il suo odore. Io diventai improvvisamente adulto quando gli album di Topolino persero il loro odore. La prima volta che aprii il cellophane e non senti più l'odore di Topolino, era finita la fanciullezza, era un'altra epoca. Maria, buongiorno. Buongiorno Gianluca, la chiamo Gianluca perché mi sento. Ma mi chiami come vuole, vada ai suoi odori. Allora, io sono una persona che sente gli odori, li ho sentiti e li adoro. I profumi che non mi piacciono sono quelli dell'olio di ricino, perché sono legati. Beh, l'olio di ricino, io non so quanti anni abbia lei, io non ho avuto 54. Modo. 54. Ah, la mia stessa età. Ecco, perciò sono legati a dei pessimi ricordi. Io l'olio di ricino invece, anzi, è un bel ricordo, perché quando l'epoca che ero intrippato fortemente per la motociclistica in generale, negli anni 60-70 anzi, andava molto di moda mettere nei motorini due tempi l'olio di ricino come additivo, dava quell'odore cattivo di moto da competizione. In realtà era uno scassatissimo motorino che non valeva nulla, però mettevamo l'olio di ricino e ci sembrava di avere la moto di un grande campione. La moto di Valentino Rossi. Beh, Valentino Rossi ancora stava, come dicono da quelle parti, nelle palle di suo padre, però ancora, diciamo, c'era Agostini, c'erano altri grandi campioni. Beh, andiamo avanti. Ecco, e poi invece mi piace molto l'odore della biblioteca, l'odore del camino, anche riesco a sentire addirittura il camino d'estate, dell'erba tagliata, della naftalina, perché mi ricorda il vestito, il cambio di stagione, del bosco, della terra. E poi io sento molto gli odori, addirittura le persone quando bevono troppo, mangiano troppo, hanno delle abitudini, gli odori che nessuno sente, io riesco a percepirli. Allora, adesso le faccio una domanda cattivella. Lei percepisce l'odore della passione di una persona che le sta vicino? Il crescere, sì. Il desiderare? Sì, sì, sì, ma non solo l'odore. Quell'odore mischiato a qualcos'altro che non si può descrivere. Un'altra cosa che le volevo dire, l'odore della passione si sente, e questo è indiscutibile. Quando andiamo al ristorante, talmente la voglia e l'esigenza di annusare le cose, io devo annusare il tovagliolo, la tovaglia, le posate, perché è tutto un odore per me. E mio marito si imbarazza un po', mi dice: ma Mary, smettila. Ma lei non è via del desiderio di annusare anche le persone? Sì, a me capita, sì, devo dirlo onestamente. Io sì, quando vado... Ma non con morbosità, ho curiosità. Con curiosità, per sé, perché cioè è come se ci fosse un percorso olfattivo. Io capisco gli animali, perché ogni odore è come se nel cervello risvegliasse una storia, un processo. Lei è d'accordo, signora, con quello che diceva la nostra amica cieca, che usiamo per vedere quello che noi non riusciamo a vedere, Antonella, che c'è un primo strato, che è lo strato di coperture, deodoranti, le cremine, l'odore del fumo, dei vestiti, degli abiti. Lei riesce ad andare oltre quello strato? Sono d'accordo, anche se non riesco a capire come posso andare al di là di questo, perché è una cosa talmente atavica che non riesco ancora a capire come vado al di là di questo, dell'odore, qual è il processo e dove arriva il mio andare al di là. Capisce quello che voglio no, dire? No, capisco perfettamente, ho un olfatto molto sviluppato, sento molti odori, sento a distanza, ho memoria degli odori, sono il primo sempre a sentire un odore di un oggetto, di una persona, di una situazione, di una stanza, tutti si meravigliano, l'odore di gas, sento sempre quando c'è una perdita di gas, tutti se ne accorgono dopo un po'. Grazie Alessandro, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, secondo me, intanto, principalmente l'odore è il ricordo. Quindi fondamentalmente queste due cose sono legate intimamente. Ci sono degli odori che io sento sempre in diverse zone di Roma, nelle strade. Alcune strade potrei riconoscerle dall'odore. Via dei Giubbonari ha un odore di sapone, polvere, qualcosa di strano, ma indiscutibilmente rimane invariato. Io ho detto l'odore della torrefazione del Pantheon, me lo ricordo da quando avevo 4 anni. Sì, sì, anch'io sento sempre questo odore preciso, puntuale, invariabile, che mi ricorda una fidanzatina, vabbè, che abitava in quella strada anni fa. Poi sento l'odore via del Pellegrino, di libri, di gomme, delle bici. Mm-hmm. L'odore del Lungotevere, che a Roma a volte si diffonde a seconda di come tira il vento. È un odore un po' marcio. Marcio, cattivo, di acqua stagna, puzzolente. Ecco, sarebbe interessante che altre persone chiamassero, non oggi, nella prossima trasmissione che faremo sugli odori, e ci raccontassero gli odori della loro città, fare delle mappe olfattive, dei percorsi olfattivi delle città. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Abbiamo soltanto un minuto, sintetizzi allora, gli odori più forti. Per me gli odori sono dei ricordi, però chissà per quale motivo ricordi di odori non propriamente gradevoli. Ad esempio? Ad esempio io ricordo la mattina quando mio padre, a scuole elementari, quindi anni 50, mi accompagnava a scuola, l'odore che usciva dalla pasticceria dove acquistava il cornetto, ed era un odore talmente pungente che... preferivo rimanere all'esterno, quindi anche quando faceva molto freddo rimanevo all'esterno per non sentire quell'odore. Io penso alla pasta lievitata, che dà quell'odore fortissimo, che è invasivo, esagerato, è una sovrapproduzione olfattiva che dà fastidio. E invece l'odore della scuola? Ecco, e poi l'odore della scuola era sempre in quegli anni l'odore della refezione. Io mi ricordo che alle elementari, col maestro unico di cui tanto si parla adesso, l'orario delle lezioni erano dalle 8:30 alle 12:30 e intorno alle 12 in tutta la scuola veniva fuori questo odore di questa refezione che io non ho mai utilizzato, ma non credo propriamente che fossero... Beh, io so di cosa si tratta, visto che siamo in conclusione, era questo odore di minestrone. Il minestrone in sé riassumeva tutto l'insieme delle possibilità culinarie di una refezione scolastica. Andava tutto a finire prima o poi, come nel libro di Gian Burrasca, nel grande eterno minestrone, ma questo accade anche per l'universo, almeno ci dicono gli scienziati. A domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.